La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, da Oscar Giannino qui alla versione di Oscar. Prima di introdurvi il tema del giorno, una segnalazione: ne facciamo più o meno uno al giorno di campagna o di temi su cui secondo noi sarebbe utile che vi sensibilizzaste. Torno a ripetervi non solo quella della campagna che trovate sul sito www.difendilatuabirra.it per aggiungere eventualmente la vostra firma all'aumento del prelievo fiscale che porterà allo Stato 47 centesimi per ogni euro di birra bevuta. Ma oggi vi segnalo un altro tema, per chi di voi ha il Corriere della Sera in mano, pagina 18 del Corriere della Sera, questo appello presentato a pagamento da tutte le organizzazioni delle organizzazioni del non profit del terzo settore italiano, che protesta perché per l'ennesima volta il tetto del 5 per 1000, il meccanismo attraverso cui noi contribuenti possiamo finanziare il terzo settore, che si occupa di salute, ambiente, socialità, e che è fondamentale per esprimere solidarietà, perché non a tutti può dare risposta allo Stato, ancora una volta nella legge di stabilità lo Stato, che si è riservato la prerogativa di decidere ogni anno dal 5 per 1000 qual è il fondo vero che gira il terzo settore, perché si prende per sé anche dal 5 per 1000, ha ulteriormente abbassato nella legge di stabilità la quota per tutto il terzo settore. Ed è una giusta protesta, secondo me, perché la sussidiarietà e la società civile è una cosa da incentivare e non da punire con lo Stato che prende per sé anche lì. Fine della segnalazione. Oggi ci occupiamo di una cosa che apparentemente non ci riguarda, ma ci riguarda, e come? Parliamo di Germania. Martedì si insedia il Parlamento eletto qualche settimana fa. Ricordate, tutti l'indomani parlavano di trionfo della Merkel, tranne poi scoprire che ha sfiorato la maggioranza assoluta da sola con la CDU e CSU per pochissimi seggi. E il problema è che ha perso, ve lo ricordo, il partner con cui governava, cioè l'FDP, i liberali. Quindi il grande interrogativo era con chi, se ci sarà un governo di grande coalizione, lo farà: con i Verdi o con i socialdemocratici. E ieri è bastato un incontro di 3 ore per decidere che mercoledì, all'indomani dell'insediamento formale del Parlamento tedesco, iniziano formalmente le trattative per una coalizione rossonera, si direbbe calcisticamente all'italiana, in realtà nero-rossa, cioè tra CDU e CSU, che ha la stragrande maggioranza relativa, e i socialdemocratici. Notizia un po' a sorpresa, perché i Verdi, che molti preconizzavano essere più probabili interlocutori alleati della CDU-CSU, si sono immediatamente ritratti, e invece questa decisione di aprire le consultazioni formali tra i socialdemocratici e i democristiani ha stupito molti, perché tutti quanti avevamo scritto e detto che nella SPD erano fortissimi i dubbi e le contrarietà, in particolare in alcune aree del partito dove il partito ha vinto governando in netta contrapposizione a CDU-CSU, tipo il Nord Reno-Vestfalia. Nellore Kraft, che è una figura emergente tra i socialisti tedeschi, erano contrarissimi, e anche il leader del partito, Sigmar Gabriel, sembrava contrarissimo. E allora abbiamo deciso di porci oggi il problema, di farci spiegare che cosa sta cambiando, cosa può voler dire questa intesa per la Germania, e soprattutto di capire che cosa può voler dire per noi, visto che stiamo parlando del paese leader che ormai nell'informazione italiana è diventato per molti anche un po' la bestia nera, che lo si fa cambiare un po' oppure chissà cosa succede. Ed è con noi per spiegarcelo Tobias Piller, che è corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che saluto e ringrazio. Grazie Tobias. Buon pomeriggio. Allora, spiegaci innanzitutto, la notizia di ieri è una notizia vera o un po' gonfiata? Cioè, si farà questo accordo e su che basi? Ah, ma se si fa un accordo, questo ancora da vedere. Per cominciare un pochino dall'inizio, alle elezioni la CDU ha avuto un voto di intorno al 42%, la SPD intorno al 25% e i Verdi un po' sotto i 10%. Così la CDU poteva fare la coalizione sia con i Verdi sia con i socialdemocratici. E certamente c'è un passato con una coalizione grande dei socialdemocratici da un lato, dall'altro lato c'era da molto tempo un antagonismo tra i Verdi e la CDU, ma si pensava che potrebbe essere comunque una strada da tentare, visto che ad Amburgo sul livello regionale si è fatto anche una breve esperienza di coalizione, in tedesco si dice verde e nera. Comunque ci sono stati in tutti e due i partiti anche dei scetticismi su una coalizione con i democristiani, perché i socialdemocratici pensavano che l'ultima volta, quando hanno fatto la grande coalizione con la Merkel, sarebbe finito poi con una grande batosta alle elezioni dopo. E poi i Verdi pensavano che forse la base nel partito potrebbe non capire una mossa di questo genere. Alla fine quello che si è visto erano dei incontri con la CDU con tutti e due, e in modo molto civile, e con parole da ogni lato molto diplomatici e carine, sempre sui partner nella trattativa, ma i Verdi poi avevano forse più paura della loro base, di questa esperienza nuova, anche se dicevano ci hanno trattato così bene, si sono mossi, non erano più questa gente, non erano arroganti, conservatori, insomma, e così via. E adesso così rimane al momento solo all'SPD per una trattativa che si è un po' rincreduto, perché vabbè, è un partito che vuole governare così. C'è Steinbrück, il capo del no, il candidato sconfitto per la cancelleria, sì, alle elezioni, che in passato aveva anche detto stare in opposizione è sempre brutto, è sempre una cavolata. Opposizione ist Mist, no? E si può anche tradurre con un'altra parola, sì, italiano. Sì. E così adesso vogliono parlarci e vogliono comunque dall'altro con questo modo di essere un po' reticente, di non essere entusiasti con quelle trattative, anche ricattare un po' la Merkel di fare più concessioni. E poi dicono anche, alla fine del giorno chiederemo i nostri iscritti a metà novembre o più tardi. Quindi ci sarà un vero e proprio referendum tra tutti gli iscritti, sì, per dire sì o no. Della SPD, e in quel senso, se certamente si perde questo voto, il partito perde un po' la faccia. E a quel punto è probabile, è possibile che si torni a votare? Sì, sì, sì. La CDU certamente da un lato dice non vogliamo così l'intrattenimento col teatrino, così, perché i tedeschi vogliono un governo. Vogliono un governo che nella prassi tedesca si fa con un accordo molto formale su quali sono i governi di coalizione, si chiama proprio un trattato di coalizione. Sì, sì, sì, ma poi si potrà scaricare con PDF in internet e avrà 200 pagine. Esattamente, cioè a differenza di noi, dove gli accordi tra partiti di coalizione, anche se hanno fatto insieme l'alleanza elettorale, sono scritti sull'acqua, lì si viene misurati su questo. Senti, ma i socialdemocratici chiedevano in campagna elettorale belle svolte, chiedono un salario orario minimo di 8,5 euro, chiedono più tasse per tornare a finanziare cose che erano state tagliate. Come si fa a pensare a un accordo su questo? Sì, ma il salario minimo sarà una cosa che probabilmente sarà concesso. Aumento delle tasse quando già ci sono tanti soldi nelle casse dello Stato sarà una cosa abbastanza improponibile per la CDU, perché la CDU aveva fatto la campagna elettorale dicendo che non facevano aumenti di tasse, per anche distinguersi dal socialdemocratico, esatto, e dai Verdi. Quindi secondo te non è improbabile questa cosa del salario orario, non è in realtà un tema troppo troppo divisivo? Adesso abbiamo le informazioni stradali e subito dopo torniamo a vedere cosa può cambiare da una grande coalizione per l'Europa e quindi anche per un paese euro debole come l'Italia. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta a 16:47 e 49. Sentiamo la domanda da un ascoltatore, Mirko, che chiama da Milano. Prego, Mirko. Sì, buonasera, buon rientro, un po' in ritardo. Grazie, figurati. Le volevo chiedere, cioè, visto che siamo ancora seduti su una bomba, hanno solo un po' cambiato il tempo di detonazione probabilmente, volevo chiederle, il rimpasto in Germania, quindi la situazione poco lucida, potrebbe un po' inasprire i rapporti con la BCE, visto che cioè, di fatto dovrebbe fare un po' di compromessi all'interno della sua coalizione? E poi volevo chiederle, cioè, visto che anche i titoli di Stato italiani sono comprati di fatto dalle banche centrali, questa è una missione della stessa dottoressa Cannata, perché ieri sì, da voi una abbiamo volta sentito, come no? Che si è un po' confessata dicendo che come primo investitore ci sono le banche centrali. Certo. Questo non vorrei che ci fosse la banca centrale che ha detto non compro io direttamente ma do il benestare alle altre. Allora, Mirko vuole sapere, in caso di accordo, di coalizione con i socialdemocratici, che cosa cambia nei rapporti con Draghi di Berlino e cosa cambia nella politica, diciamo così, anche delle misure di sostegno che con Draghi sono avvenute? Dal punto di vista tedesco diventa più duro o più morbido, Tobias Spiller? Secondo me non cambia molto, perché non c'è grande voglia di mettere in campo soldi del contribuente tedesco per metterlo così in modo un po' semplificato, ma è un po' brutale, mi scuso, ma mi faccio poi capire meglio, perché il dipendente del servizio pubblico in Germania, al quale è stato tagliato la tredicesima, dovrebbe avere un aumento delle tasse per pagare per altri, diciamo, dipendenti pubblici greci che sono troppi e forse non lavorano tutti in modo produttivo. E allora, quindi dice che su questo in realtà la base socialdemocratica la pensa come quella della CDU-CSU? Sì, abbastanza. Certamente nel Parlamento ultimamente hanno anche tante volte votato per le misure di salvataggio e hanno detto a Schäuble, il ministro delle finanze, di non aver fatto chiarezza su quanto bisognava ancora impegnare sulla Grecia, e poi ci sono state delle sfumature sulla politica dei salvataggi, ma uno può essere abbastanza chiaro che ci sono anche grandi consensi sul fatto che bisogna salvare la competitività dell'industria tedesca, bisogna salvare tutto il mondo con soldi dei contribuenti tedeschi e bisogna anche garantire una politica di una banca centrale indipendente che così non faccia aumentare troppo l'inflazione. Senti un po', aspetta, ti interrompo per ricordarti che insomma la crescita tedesca quest'anno è stata corretta al ribasso, certo ha un segno positivo, sì, ma sarà 0+0,4, una cosa così. E c'è un dato, da quando abbiamo l'euro, per cui l'export, sul totale dell'export tedesco, sappiamo che è la potenza manifatturiera che esporta più eccetera eccetera, in realtà in tutti gli anni, già si vedeva prima della crisi, nella crisi è diventato più evidente perché stiamo peggio come euro scassati, ma la quota di export tedesco all'interno dell'area euro è considerevolmente scesa, perché era molto più del 60% all'inizio dell'euro e adesso siamo a 50 e rotti qualcosa, 54%. E allora vuol dire che la Germania esporta, vende più sul resto del mondo e meno in Europa, e così è meno ricattabile da quelli che dicono dovete regalarci soldi così compriamo prodotti da voi. Durissimo, no? Durissimo. Tu non pensi che con i socialdemocratici ci sia un orecchio un po' più attento alle parti europee che dicono dovreste, per così dire, reflazionare a casa vostra, cioè aumentate un po' più i salari tedeschi, fate consumare di più e quindi vi beccate più importazioni dai paesi eurodeboli che potrebbero esportare di più in Germania? Sì, ma questa domanda viene da una visione molto italocentrica, perché c'è stato già questo aumento grande dei salari in Germania, che di fatto ha già diminuito la competitività tedesca, ma se la potevano permettere essendo in quella situazione di buona competitività. Solo il punto è che l'Italia, che 20 anni fa era il fornitore numero 3 della Germania, adesso è il fornitore numero 6 della Germania, così nel 91 l'Italia era al picco, così di 100 euro che o 100 marchi che spendevano i tedeschi all'estero per importazione, 10 arrivavano in Italia. Tobias, lei lo sa che questo argomento che ha appena citato è uno di quelli citati in Italia da chi dice usciamo dall'euro, perché eravamo più forti anche nei confronti dell'interscambio tedesco quando l'euro non c'era. Sì, ma sono attualmente al convegno dei giovani industriali a Napoli. Che non la pensano così. E lì c'era un intervento molto tagliente che diceva volete come esempio la Germania o la Cina? Se volete la Cina dovete avere salari di fame e potete impoverire le aziende e così dovete svalutare e così o volete prodotti più innovativi, prodotti di lusso, prodotti con più contenuti e allora potete aumentare il salario ma dovete fare altri cambiamenti. Io penso che la svalutazione o in quel senso sganciarsi dall'euro, svalutare, sono ricette di 30 anni fa che oggi in una economia globale non funzionano più. Poi l'Italia dovrebbe ricordare dove l'ha portata la via della svalutazione competitiva con la Banca d'Italia che usava il torchio per il debito pubblico, cioè in ginocchio, però questo c'è molta gente che la pensa diversamente. Ultima domanda ti faccio, se c'è la grande coalizione, i socialdemocratici tedeschi rispetto alla sinistra che ha problemi a stare in questo governo di intesa italiana che non è paragonabile a quello, potrebbe avere un'influenza diretta anche sul governo Letta o non cambia niente anche in questo caso? Non penso, i socialdemocratici vorrebbero una voce anche nella gestione della crisi, così vorrebbero anche portare, così trattano anche sul Ministero delle Finanze che vogliono avere e poi anche il Ministero del Lavoro e o Ministero di Economia e Energia e Infrastrutture, un ministero ingrandito, abbiamo solo 14 da distribuire in Germania. Così in questo vogliono anche avere una voce nel capitolo, ma non sottovaluterei il fatto che c'è un grande consenso che l'Europa insieme deve diventare più competitiva e così avere più posti di lavoro, così aumentare la sua quota di posti di lavoro, di posti di lavoro nel mondo industriale e dei servizi nel mondo e così anche non farsi fra 10 anni, 20 anni comandare da India e Cina essenzialmente. Grazie a Tobias Spiller, con noi appuntamento a lunedì, grazie, continuate su Radio 24, vedremo cosa succederà, l'Italia è debole di suo però.